Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La borsa va bene anche oggi, Milano, e va anche oggi meglio delle altre borse europee, più 0,5%, Francoforte meno 0,2%, Londra più 0,2%, Parigi fa come Milano, più 0,6%, l'America meno 0,20%. Quindi si conferma il rialzo di ieri. Noi abbiamo molto così maliziato sul fatto che nella giornata festiva la borsa salisse così tanto. Evidentemente oggi, che è pienamente lavorativa, continua a salire. Continuano a salire i due titoli che ieri avevano fatto il botto, mi riferisco a Fondiaria Assai, ieri più 9%, oggi più 5%. La Popolare di Milano, anche ieri molto forte, oggi più 7,3%, Azimut più 3,7%, bene comunque anche oggi bancari, Unipol più 3%, Monte dei Paschi più 2,5, Intesa più 2, Unicredit più 1,80 e ancora Italcementi più 2,80%, A2A più 2,15. Chi perde? Beh, c'è qualche calo significativo. Pirelli soprattutto meno 2,7, Ansaldo meno 2,6, Saipem meno 1,7, Bulgari pure 1,5% il calo di Campari, l'1,3 quello di Mediaset, l'1% quello di Finmeccanica. L'euro è leggermente in indebolimento, non è debole, è 1,3180, però di euro parleremo in apertura, perché un tema che sotto traccia si era già sviluppato in queste settimane, ossia: può tenere un euro in questo modo? Cioè, può tenere un euro con un paese che ha dentro dei paesi come Germania e Francia da un lato, e dall'altro paesi come Irlanda, Portogallo, Grecia, Spagna e anche forse Italia? E ecco, riaffacciarsi una proposta già avanzata dall'Economist, che dice, insomma, è un euro così, un euro che vada bene alla Germania, è un euro estremamente costoso per alcuni paesi, quelli appunto che avrebbero forse più vantaggio nello svalutare in questo momento. E allora forse si potrebbe fare una break up, cioè una separazione tra alcuni membri, quelli più deboli, Grecia, Irlanda, Portogallo e forse la Spagna, e invece quegli altri più forti. O addirittura si potrebbe avere una Germania che esce dall'euro, si ricrea un altro euro con l'Olanda, l'Austria, e potrebbe restaurare, se non un altro euro, il marco tedesco. Questa è fanta economia monetaria. Lo è fino a un certo punto, perché oggi è arrivata un'altra proposta da parte dell'economista, che spesso è il nostro ospite, Luigi Zingales, che dice in sostanza: attenzione, il progetto di moneta unica è fallito, sarebbe meglio pensare a un'alternativa, una moneta per il Sud Europa e una per il Nord Europa, dove per Sud Europa ci saremo dentro anche noi. Allora, un tema molto stuzzicante. Faccio notare che l'Italia, pur avendo un paese diversissimo tra Nord e Sud, ha sempre avuto una moneta unica come la lira. Faccio notare che anche in Spagna e in altri paesi europei esistono delle differenze enormi quanto al reddito pro capite, tra l'Estremadura da una parte e la Catalogna dall'altra, per cui insomma, non è strano che una moneta tenga assieme aree geoeconomiche molto diverse, come può essere in questo momento sicuramente la Germania rispetto al Portogallo. Però insomma, si ragiona di questo anche perché la Germania sta dimostrando un atteggiamento molto molto rigido sull'ipotesi di salvataggio. Un euro debole favorirebbe la Germania? Sì, probabilmente, però potremmo fare un euro sud e un euro nord. Vedo alcuni messaggi al 349-238-6666, ma è più un'ipotesi di ragionamento. Però ne parleremo in apertura, perché assieme all'agenzia di stampa Radio Cori sulle 24 ore abbiamo intervistato numerosi economisti su questo tema. Ossia, è ipotizzabile un nuovo euro, o quindi di fatto un'uscita da questo euro? Le risposte le avremo fra qualche minuto, prima di tutto però le notizie in breve. Petrolio sotto i 90 dollari, ma 88,8 dollari al barile. Oro in rialzo, anche se distante dal record, a 1388 dollari l'oncia. Il Giappone esce con i dati economici. Va bene il PIL giapponese. Praticamente su base annua, nell'ultimo trimestre nel terzo trimestre ha fatto più 4,5%. Vanno molto bene in Giappone le vendite di beni durevoli, cioè quelli non da consumo, quelli che si comprano una tantum. E il Giappone resiste così all'avanzata della Cina e resta, anche se di un soffio, la seconda economia al mondo alle spalle degli Stati Uniti. Certo, la Cina, con il dato che si attende per fine anno, sorpasserà definitivamente il Giappone. In Irlanda continuano i problemi. L'agenzia di rating Fitch ha tagliato il voto di 3 gradini all'Irlanda, portandolo da più a BBB più, ma con prospettive stabili. Citigroup ha annunciato che creerà 250 posti di lavoro, ma è poca cosa. Invece il governo britannico ha rivisto al rialzo la nuova tassa da applicare sulle banche nazionali. Dal 1 gennaio, infatti, in Gran Bretagna verrà imposta una tassa dello 0,05% alle banche che avranno ricavi superiori ai 20 miliardi di sterline. Una tassa questa che dovrebbe portare nelle casse del governo britannico 2 miliardi e mezzo di sterline, quindi non poca cosa. Alcuni l'hanno chiesta anche in Italia, comunque. E allora invece occupiamoci d'Italia e dell'economia italiana, e nel caso ancora più specifico delle piccole e medie imprese, perché il prossimo 31 gennaio scadrà la moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese, l'iniziativa forse più importante a favore dei piccoli, presa d'accordo con l'associazione di Confindustria, sindacati dal governo e l'ABI, quindi le banche italiane. A fine settembre erano 180.000 le aziende che avevano aderito alla moratoria, per un totale di circa 55 miliardi di debiti congelati. Tanta roba, 55 miliardi. Ebbene, ora come ora, il rimborso resta ancora un problema insormontabile per moltissime piccole e medie imprese. La nostra Valeria De Rosa ha chiesto a Vincenzo Boccia che cosa si può fare, se si può immaginare un'ulteriore proroga di questa moratoria. Dobbiamo ricordarci che la moratoria è scaduta a giugno di quest'anno, poi è stata riprorogata per altri 6 mesi per le nuove operazioni. È evidente che si pone comunque una questione di way out dalla moratoria, una moratoria da riproporre. La Banca d'Italia ha fatto sapere al sistema bancario chiaramente che è improponibile, perché significherebbe mettere in sofferenza quegli importi e diventa delicato per l'intero sistema bancario. Trovare delle way out è una delle cose che stiamo valutando insieme al tavolo con ABI. Per esempio, potrebbe essere per quelle aziende che abbiano comunque fondamentali a posto e che quindi sono in tensione finanziaria ma hanno risolto le questioni economiche, di poter proporre loro una possibilità di allungamento di rate. Non possiamo chiedere alle banche di sostenere a vita una situazione, perché corriamo, come dire, il rischio di fare quello che noi non faremo mai. Noi non affideremo mai a clienti, come dire, precari a vita una situazione di fido totale. Allo stesso tempo, se vogliamo imprese bancarie forti e che facciano impresa bancaria davvero e che valutino però le aziende anche dal punto di vista qualitativo, dobbiamo aprire questo fronte. Così Vincenzo Boccia. Una notizia adesso appena battuta dall'agenzia, ve la stiamo dando: è arrivata la sentenza molto attesa per Callisto Tanzi, processo Parmalat, ed è, vedo solo il flash agenzia, una bella botta. Il PM aveva chiesto 20 anni di reclusione, il giudice ha dato 18 anni di reclusione a Callisto Tanzi per i crack della Parmalat, notizia appena battuta dall'agenzia. E adesso cerchiamo di metterci in collegamento con la collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, che sta seguendo che ha seguito proprio la sentenza a Parma. Ancora, andiamo avanti invece sul tema della moratoria del debito. Allora, il ragionamento che avete sentito di Vincenzo Bocce è chiaro: si può andare avanti con una proroga, ma prima o poi questo debito va ripagato, perché non è che uno può vivere in moratoria perenne. Più arrabbiati comunque i piccoli imprenditori riuniti nel network Imprese che resistono. Luca Peotta, titolare della piemontese Unireform e coordinatore del movimento, sempre al microfono della nostra Valeria De Rosa. E adesso, come si dice, tutti i nodi vengono al pettine. Dal punto di vista di ordinativi c'è stato un nuovo calo da settembre, ottobre, novembre compreso. Il telefono ha smesso di suonare, quindi siamo ricalati in una crisi produttiva. E quindi adesso, appunto, dopo l'urlo tra virgolette della Marcegaglia, che diceva dobbiamo assolutamente trovare una soluzione prima della fine dell'anno per la moratoria, che comunque, voglio dire, ce l'hanno venduta come manna dal cielo, nuovamente la situazione è a favore delle banche, perché si pagano gli interessi degli interessi. Il riscadenzamento del debito, secondo lei, potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione? No, anche perché oggi come oggi abbiamo un altro problema, che è Equitalia. Ci sono molte aziende che sono andate in sofferenza perché non pagando INAIL. Solo a Torino, in provincia di Torino, le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2009 sono 2.962.000. In Piemonte la crisi è arrivata, quella che fa male. Il fatto di consorziarsi può andare bene. Il problema fondamentale è che mancano le commesse. Sicuramente con i costi che abbiamo manca della nostra competitività. Ci capiamo che se abbiamo una pressione fiscale al 76%, si parla del 44% di pressione fiscale in media, ma nelle realtà piccole medie la pressione arriva al 76%. Allora, torneremo sul tema. Adesso però vorrei collegarmi con Parma, dove c'è l'inviata dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, Flavia Carletti. Flavia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, oggi è arrivata, non era certo che sarebbe arrivata oggi la decisione del Tribunale di Parma, il crack Parmalat, come non ricordarlo, eravamo in diretta in quei giorni di dicembre, 14 miliardi di euro, il più grande crack europeo di un'azienda privata europea, con centinaia di miliardi di risparmiatori messi in ginocchio, obbligazionisti e azionisti, documenti truccati, finti depositi alle Cayman, finti depositi, finto conto corrente Bonlat, finte rapporti con la Bank of America, che poi disse ma questi soldi non ci sono mai stati, insomma un taroccamento a tutti i livelli, addirittura fotocopiando con lo scanner. La richiesta del PM era di 20 anni, 18 anni non sono pochi, Flavia. Sì, esattamente. Il giudice Leonora Fiengo, il presidente del Collegio del Tribunale di Parma, in questo momento sta ancora finendo di leggere il dispositivo della sentenza, e appunto il primo nome che ha fatto quando ha letto le condanne è stato proprio quello di Callisto Tanzi, condannato a 18 anni. L'altra condanna più severa è quella dell'ex direttore finanziario della Parmalat, Fausto Tonna. Fausto Tonna, 14 anni? Esatto, mentre la richiesta della Procura di Parma era stata di 9 anni e 6 mesi, quindi una pena aggravata dai giudici rispetto a quelle che erano state le richieste dei magistrati. Tutte le altre condanne vanno un anno e 6 mesi, appunto fine 18 anni di carcere di Tanzi. Molte state le richieste dei PM, l'unica veramente a sorpresa è stata quella di Tonna, perché i magistrati invece avevano riscontrato da parte sua una certa collaborazione e quindi avevano deciso di fare una richiesta meno severa di pena. Per Tanzi c'è stata anche la interdizione perpetua da tutti i pubblici uffici, la confisca e la restituzione poi agli aventi diritto, alle parti civili, di quanto già sequestrato, di quanto già era stato sequestrato in fase di indagini, e in più è stata anche decisa l'esclusione da tutti gli uffici nelle pubbliche imprese per oltre 10 anni. Quindi diciamo che questa è la fine, cioè non era chiaro, della carriera in qualche modo imprenditoriale di Tanzi. Allora, vediamo di capire. 18 anni con 20 vuol dire che più o meno il giudice ha accettato tutta la linea del PM. Su Tonna invece, ve lo ricordate Tonna, quello che maledisse i giornalisti, quello un po' arrogante, spocchioso, quello che era la mano finanziaria di tutta la baracca messa su, il castello di carte messo su da Callisto Tanzi, in cui ancora i rapporti con la politica e con il mondo bancario sono oggetto di indagine, di altre inchieste, Flavia, se non ricordo male, perché questo è un filone del processo, giusto? Sì, questo qui è quello che viene chiamato il filone principale, sì. Quello proprio per l'associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta in tutte le sue fattispecie, quindi per distrazione, per dissipazione, esatto. Legata alle truffe e falsi. Però comunque qui a Parma ci sono altri processi. Uno è quello chiamato Parma Tour, che era il gruppo turistico, sì, del gruppo Parmalat. Poi c'è un altro filone che è quello sulle acque minerali Ciappazzi, che sono, che erano state vendute a Parmalat dall'imprenditore Ciarrapico. Poi rimangono aperte ancora un filone al Tribunale di Milano, che però vede imputati non manager della Parmalat, ma manager bancari e quattro istituti di credito per il ruolo che avrebbero avuto nel crack della Parmalat. A Milano poi c'è stata sempre la condanna in secondo grado per l'aggiotaggio a Callisto Tanzi, che è stato condannato a 10 anni di reclusione e su quale poi pende ancora però la Cassazione, perché gli avvocati di Tanzi hanno annunciato che useranno anche questo terzo grado di giudizio. Certo. E poi qui a Parmalat ricordiamo che ci sono ancora tutti i processi alle banche, che quelle che non sono uscite dai procedimenti con accordi hanno ancora in corso dei processi che in alcuni casi sono in fase di udienza preliminare, in altri casi è finita l'udienza preliminare ma ancora è stata fissata l'inizio del processo per i primi mesi del 2011. Sì, qui a Parmalat sarebbe Parma, però Parma, è chiaro che ormai, ahimè, viene identificata con questa vicenda. Fai bene a ricordare questo, perché diciamola tutta. Allora, c'è una parte di responsabilità totale dei vertici Parmalat, il presidente Tanzi, il direttore responsabile finanziario Tonna, poi c'è il ruolo delle banche, e qui insomma è chiaro che non è che la cosa che uno costruisce un impero di buchi semplicemente senza farlo sapere a nessuno. Forse qualche banca, questo ipotizzano i PM, era al corrente e ha prestato i soldi. Poi c'è tutto il percorso della quotazione, sarebbe da capire anche chi suggerì la quotazione in borsa di Parmalat, che era già un'azienda secondo alcuni tecnicamente fallita a suo tempo, piena di debiti. Insomma, il ruolo della consulenza bancaria nella gestione di Parmalat, e poi anche alcune acquisizioni. Quella delle acque minerali che tu ricordavi vede un Callisto Tanzi che ha sempre detto: io insomma, ho dovuto accettare certe pressioni che arrivavano dalla politica e da alcuni soggetti, per cui attenzione, non è vero, sono anch'io vittima. Insomma, uno può essere delle volte nella vita anche vittima ma anche grande carnefice. Nel caso specifico lui lo è stato. Un'ultima nota, Flavia Carletti, su Fausto Tonna, perché insomma portare da 9 anni di richiesta del PM a 14 anni è tanto. Secondo quello che si è capito, i giudici evidentemente hanno ritenuto che il suo ruolo fosse più determinante o non gli hanno voluto riconoscere, diciamo, la collaborazione finale. Ma probabilmente i giudici hanno preferito dare una condanna in qualche modo che fosse chiara sul ruolo che ha avuto Fausto Tonna nella vicenda. Per quanto lui abbia collaborato, comunque c'è da ricordare che lui ha iniziato a collaborare in fase avanzata di indagini, all'inizio non era stato così collaborativo come alla fine. Quindi probabilmente quello che volevano riconoscergli i PM, che in qualche modo poi sono stati aiutati da lui nella fase finale delle indagini, probabilmente i giudici invece non hanno voluto non tanto non riconoscere questo, ma comunque non togliere il fatto che lui sia stato uno dei principali artefici insieme a Callisto Tanzi di tutta la costruzione diciamo dei falsi che hanno portato poi al crack del gruppo. Andranno in galera? Questa cosa è da chiarire, perché il giudice ha fatto un breve passaggio spiegando che alcuni andranno agli arresti domiciliari, però purtroppo il fatto che sta ancora parlando, adesso dovremo un attimo risentire, perché ha parlato appunto per alcuni di loro di arresto. Adesso cercheremo di chiarire appena finito di parlare. Va bene, prossimi collegamenti nel corso del GR, grazie a Flavia Carletti. Noi partiamo col primo tema, che cambiamo radicalmente tema, e mi riferisco a questa idea che sta circolando nel dibattito europeo di, se continuano così, se continuano ad esserci attacchi a paesi molto deboli, di avere non un'Europa a due velocità, quella già ce l'abbiamo, ma fermiamoci un attimo con la sigla, poi parto. Non un'Europa a due velocità, dicevo, ma di avere un euro a due velocità, quindi un euro per i paesi del nord e un euro per i paesi del sud. Sigla. Intanto la cronaca di oggi. Da un lato ci sarà un incontro tra Angela Merkel e Sarkozy, perché Parigi ha appoggiato oggi Berlino sul fondo Salva Stati, e anche nel senso che ha detto ha ragione Berlino nel non ritenere necessario aumentare le riserve del fondo per salvare gli stati da altri stati da altri attacchi e emettere Eurobond. Quindi la Francia è uscita allo scoperto ed ha ragione a Berlino, si ricrea l'asse renano, l'asse franco-tedesco. Allora, sì, vi auguro una morte lenta e dolorosa, fu la frase di Fausto Tonna ai giornalisti, ma mi sembra che a questo punto non ci sia niente da augurare a lui. Invece andiamo avanti con l'Europa. Domani il vertice tra Angela Merkel e Sarkozy, appunto, mentre il commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn dice il progetto di un euro bond non è sbagliato, è un'idea intellettualmente stuzzicante e il progetto europeo non è in discussione. Però, insomma, l'atteggiamento tedesco, che adesso è aiutato anche dalla Germania, fa sorgere un dubbio, e lo fa sorgere all'Economist e anche a un economista come Luigi Zingales. Ha ancora un senso pagare un costo così alto per un euro che non rappresenta più l'area economica di cui è espressione? Ripeto, noi eravamo abituati a avere la lira che rappresentava la Val d'Aosta come la Calabria, per cui io su questo non starei a impazzire, però evidentemente la posizione tedesca è una posizione che vuole un euro comunque forte, perché è un euro marco, e devo dire che quanto ci è costato legare l'euro al marco, perché una moneta così forte l'ha voluta la Germania, l'euro 1932 l'ha voluto la Germania, in tanti tedeschi dovrebbero ricordarsi, che hanno scaricato anche qualche costo dell'unificazione sull'Europa, però è anche vero che i paesi in difficoltà, Grecia, Irlanda, forse Portogallo, speriamo di non la Spagna, se avessero un euro più debole potrebbero usare un po' di vantaggio competitivo, come si chiamava una volta, svalutazione competitiva, no? Non essere dentro la moneta più forte che c'è in questo momento al mondo. E allora abbiamo fatto assieme ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, che ringraziamo, un rapido giro di interviste a vari economisti. Un euro del nord e un euro del sud vi convince? Teresa Trillò di Radio Corriere sulle 24 ore lo ha chiesto in primo luogo a Tito Boeri, che insegna economia del lavoro alla Bocconi di Milano e uno dei fondatori del sito lavoce.info. La proposta in sé mi sembra una proposta accademica, diciamo che se si dovesse arrivare ad una soluzione di questo tipo, molto probabilmente l'unico esito sarebbe quello di un abbandono completo del progetto dell'euro e di un ritorno alle monete nazionali. Devo dire che nell'intervista oggi su Repubblica parla più che altro di una possibilità di un'uscita dalla Germania, dall'euro, dalla Germania, la Finlandia, i paesi più forti, l'Olanda, quindi praticamente di un ritorno alla vecchia area del marco, lasciando poi la possibilità agli altri paesi che dovessero rimanere in quello che oggi è l'euro di trovare delle soluzioni al loro interno. Però francamente anche questa seconda ipotesi mi sembra molto poco verosimile, insomma credo che se si dovesse andare in quella direzione molto probabilmente si andrebbe a un ritorno alle monete nazionali. Non sono d'accordo con la diagnosi di Zingales. I problemi che hanno portato alla situazione attuale sono legati alla crisi finanziaria. Prima della crisi finanziaria, molti paesi che attualmente sono in crisi avevano avuto tassi di crescita molto elevati, quindi non è vero che il problema è tutto nel tasso di cambio, non è vero che dando la possibilità di cambiare il tasso, appunto di avere il tasso di cambio, si migliorerebbe di molto la competitività di alcuni paesi. Quindi non, io penso che le cose che andrebbero fatte sono quella di potenziare questo fondo che è stato creato a livello europeo. Potenziando questo fondo si avrebbe anche la possibilità di usarlo meglio come strumento per penalizzare i paesi che non rispettano le regole fiscali che vengono adottate da livello europeo. Così Tito Boeri. Una precisazione a un ascoltatore che dice tu sei malato, riferito a me, di idee folli, vatti a ricoverare. Sì, certo, è un'ipotesi, adesso però devo dare il meteo, però attenzione che l'ipotesi l'avanza dall'Economist, non il sottoscritto, non per nascondersi tra un dito, e oggi la riprendeva Luigi Zingales, che è un economista. È un ragionamento, vista la posizione tedesca che dice no, non aumentiamo il fondo europeo salva stati, no alle emissioni obbligazionarie a livello europeo, cioè la Germania dice arrangiatevi, io vado avanti da sola. A questo punto il costo, come si chiede l'Economist, dell'euro per alcuni paesi in difficoltà è molto alto, cioè molto alto essere un paese come la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda come costo e avere una moneta fortissima. Di solito la moneta esprime la forza di un paese, in questo caso non è vero, perché esprime la forza della Germania, forse della Francia, ma non certo quella di Irlanda, Portogallo e Spagna in questo momento. Abbiate pazienza, dopodiché noi sempre abbiamo difeso l'euro e sempre difenderemo l'euro. Comunque, meteo pubblicità e poi le altre dichiarazioni, e poi la borsa che ha chiuso in rialzo dello 0,7%. Diciassette 39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che il tema di un'ipotesi di due monete uniche, di un euro del sud e un euro del nord, che poi vorrebbe dire un euro della Germania e dei paesi a lei vicini, e un euro e forse anche della Francia, e un euro invece per il resto d'Europa, Italia, Spagna, prende piede anche tra gli ascoltatori. Devo dire che non se ne discute minimamente a livello ufficiale e formale. Se ne discute sull'Economist, sui giornali, e gli economisti intervengono. Riprendiamo il tema. È indubbio che in questo momento la Germania si senta non voglia tenere su le economie in difficoltà dell'Europa, i debiti delle economie in difficoltà in Europa. E dall'altra parte la Germania è anche vero che non ha tutti questi problemi con un euro a 1,31, visto che continua a esportare, li hanno di più altre economie. È vero quello che scrivono molti ascoltatori, però le materie prime si pagano in dollari, un euro più debole, un euro due, un euro del sud più debole farebbe costare di più le materie prime, lo sappiamo, pagheremo di più tutto quello che arriva da che viene importato, e anche benzina, petrolio e i loro derivati, e quindi costo, trasporti e tutti i prodotti che vengono utilizzati usando molta energia, che vengono realizzati utilizzando molta energia. Avremo come vantaggio una svalutazione competitiva che ci permetterebbe di andare a competere sui mercati. Siamo sicuri che l'Italia però possa competere solo sul prezzo? Perché io su questo qualche timore ce l'ho. Secondo me quando competi con la Cina, con il Vietnam e con l'India, il prezzo comunque ce l'hanno più basso loro. Comunque, torniamo sul tema. Torniamo sul tema, fermo restando che noi abbiamo sempre difeso l'euro perché difende i nostri risparmi, ed è meglio avere risparmi con una moneta forte che risparmi con una moneta debole. Questo è un po' la catalano, ma ci sta. Eccola qua la Banca Centrale Europea che è uscita adesso. Beh, insomma, una bella iniezione di fiducia e ottimismo. Ancora molti rischi sulla stabilità finanziaria, grazie. Possibili sorprese negative sistemiche, di nuovo grazie. Pesa l'interazione fra i problemi del debito e la vulnerabilità delle banche, scrive sempre pochi istanti fa la Banca Centrale Europea. C'è un triangolo negativo sui rischi di bilancio delle banche per quello che riguarda la crescita, un triangolo delle vulnerabilità, la chiama la Banca Centrale Europea, tra la crescita economica, il finanziamento delle banche e gli squilibri fiscali. Gli squilibri mondiali torneranno ad ampliarsi, dice la Banca Centrale Europea, dovrebbero tornare ad aumentare e portare a una significativa volatilità dei cambi. E poi alcune banche europee necessitano di una cessione dei loro asset, delle loro controllate. Sì, no, tutto vero, tutto giusto, però insomma, continuiamo a dire o ci date le soluzioni o ci spiegate come, che cosa. Questa Banca Centrale Europea che però poi è sempre obbediente alla Germania, allora dicesse cosa bisogna fare dell'euro, cosa pensa di un fondo europeo di salvataggio, cosa pensa degli eurobond, perché dire che poi insomma possibili sorprese negative sistemiche a me fa venire in mente solo una cosa. E vai col nostro gufo, cara BCE, caro Trichet, dateci informazioni più precise, non se ne può più di sentire questi allarmi generici, poi magari fra un mese, ma la situazione migliora, però è tutto un sì ma, un ma però, che poi non si può neanche di, per cui insomma, chi è catalano, quelli della notte, era un programma di qualche anno fa, sentiamo invece cosa pensano, anzi facciamo così, facciamo la borsa, e poi ascoltiamo altre dichiarazioni sull'ipotesi di un doppio euro, di un euro a due velocità. La borsa. più 0,7 Milano e anche Parigi, meno 0,2 Francoforte, più 0,1 Londra, meno 0,2 l'America, di nuovo molto forti alcuni titoli, confermando quello che era stata la fiammata di ieri, lo dico, quindi ci siamo sbagliati se abbiamo maliziato su così chi guadagnava a borsa chiusa per molti altri operatori. Leonora Micheli, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Leonora, che succede sulla Fondiera Sai? Perché anche oggi porta a casa un rialzo alla fine della seduta che è del 5,5%, ieri di quasi il 9%. Sì, 5,5% che ha spinto in alto tra l'altro anche i titoli della controllante Premafin, che hanno segnato la miglior performance, più 13,99%. Va detto che però a novembre sia Premafin che Fondiaria, anche Milano Assicurazione, tutto il gruppo della famiglia Ligressi ha accusato una performance pessima, accusando cali tra il 30 e il 40%. I trader definiscono dunque la performance di oggi, anche delle sedute precedenti, come un rimbalzo puramente tecnico. Per quanto riguarda Premafin, in particolare abbiamo sentito anche la società che non riesce a giustificare la performance odierna, appunto come abbiamo detto del 13%, e comunque ha ricordato che ancora lavorando per la ristrutturazione del debito. Ricordiamo che nel primo semestre del 2011 partiranno inoltre gli aumenti di capitale tanto di Premafin che della stessa Fondiaria Sai. Ma insomma, per settimane hanno bastonato i due titoli, Fondiaria e Premafin, anche quando l'ingresso della francese Groupama è diventato cosa certa. E adesso cosa è successo? Cosa hanno scoperto? Ma non hanno scoperto assolutamente niente, va detto che stanno rimbalzando tutti i settori assicurativo e bancario in tutta Europa. Del resto, guardando anche a livello globale, il comparto assicurativo europeo ha fatto più 2,29%, quello bancario più 1,67%, ad esempio sempre nel settore bancario in Italia le BPM hanno registrato un rialzo sul finale del 6,7%, ma nel durante della seduta sono arrivate a guadagnare ben oltre il 7%. Nell'inizio anno però la stessa BPM perde circa il 50% del proprio valore. Sembra proprio un rally di fine anno, si recupera nelle ultime sedute dell'anno probabilmente quanto si è fatto nelle sedute precedenti, ci si rende conto che forse alcuni titoli sono stati penalizzati eccessivamente. Sì, quindi nessuna motivazione solida. Un paio di risposte agli ascoltatori. Dunque, l'euro bond, cioè l'obbligazione europea, non andrebbe, l'abbiamo spiegato ieri, non andrebbe a sostituire i BTP, i bot di ogni paese, sarebbe diciamo una quota del debito dei vari paesi che viene assegnata a un ente centrale europeo e collocata sotto forma di euro bond, euro bot. Non è tutto il debito, però tanto la Germania dice di no e oggi la Francia ha detto di no anch'essa, quindi per ora non se ne fa niente. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vi assicuro che Leonora Micheli è simpatica, brava, tanto quanto Livia Zancanelli. Leonora qui sta scattando un meccanismo perverso, per insomma. Eleonora, lo confermi? Sicuramente. Ecco, grazie. Andiamo avanti con i titoli perché gli ascoltatori oggi sono un po' così leggerini, poi devo leggere anche un paio di messaggi invece più seri. Insomma, ho capito che non c'è un motivo, ecco. Italia Cementi più 4,11%, Azimut più 3,90%, Buzzi Unici più 3,37%, Unipol più 2,80% e quant'altro. Allora, vado avanti, se volete, Mediobanca più 2,40%, Monte dei Paschi più 2,3% come Intesa, A2A più 2,1%, Unicredito più 2%, Impregilo più 1,70%, Ubibanca più 1,3%, Generali più 1%. C'è però qualche titolo che soffre oggi e soffre in maniera anche insistita. Pirelli meno 3%. Sì, Pirelli soffre insieme a tutto il settore europeo dell'auto. Il sottoindice ha segnato un ribasso del 2% e evidentemente ha trascinato in giù un po' tutti i titoli. Del resto anche a Parigi, ad esempio, le aziende del settore auto hanno perso tra il 3 e il 5% e ovviamente questo ha penalizzato anche il comparto degli pneumatici. Non ha fatto eccezione per rimanere in argomento Fiat, che ha lasciato sul parterre sul finale l'1%. Ancora per quello che riguarda i titoli, Ansaldo CTS meno 2,80%, Bulgari meno 1,80%, Saipem meno 1,70%, Campari meno 1,40%, Mediaset meno 1,1%. E qui c'è una notizia di mercato, nel senso che Sky si è aggiudicato i diritti di Champions League, no? Certo, si è aggiudicata i diritti di Champions per le stagioni 2012-2013 fino al 2014-2015, quindi una brutta notizia per Mediaset, le azioni hanno sofferto. Tra l'altro poi indiscrezioni di stampa oggi hanno ipotizzato una possibile proroga anche per il 2011 del divieto degli editori televisivi di acquistare giornali. Ancora, i migliori e i peggiori. Premafin, appunto, la controllante di Fondiere Assai, Famiglia di Gresti, più 14%, Arena più 12%. Che è successo, Arena? Arena è un po' nel mirino della Consob, però non è che siano uscite questo, di recente. Se questo è l'effetto, vorrei esserci anch'io, diciamo, la cosa. Però, risanamento più 9,6, Banca Profilo più 7,3, Meridiana più 7, Fondiaria più 6,90, Popolare di Milano più 6,70. Le buone società. Un titolo molto sottile che è praticamente l'ex filatura di Pollone, più 6,70, Class più 6,20. Sul fronte opposto TAS meno 50%? Sì, meno 50%, ma non saprei dirti il motivo. No, per carità, meno 50. Vita società editoriale meno 70, Louis Vuitton meno 4,70, Seat sulla risparmio meno 3,50, BMW meno 3,40. Per cento. Volevo dare ancora una nota per quello che riguarda invece il gruppo Ritorno Corriere della Sera, perché l'avvocato Marco De Luca si è dimesso dal consiglio di amministrazione di RCS Media Group e il CDA, il consiglio di amministrazione del prossimo 17 dicembre, prenderà le delibere conseguenti. In sostanza è presumibile che nel consiglio entri Giuseppe Rotelli, indicato dallo stesso De Luca. Questa era una nota di margine. Scusatemi per la voce, di Eni. Delle dichiarazioni che ci ha fatto il numero uno Paolo Scaroni, parleremo nella seconda ora del programma, sia su Wikileaks sia sui rapporti con Gazprom, la vicenda con Mentasti. ST Microelectronics è l'ultimo titolo che ho per te. Sì, ST infatti si è messa in evidenza sin dalle prime battute, sul finale ha chiuso in rialzo dello 0,79%, a motivare, diciamo, a incoraggiare gli ordini in acquisto sulla società è stato il fatto che il gruppo concorrente olandese ASML ha rivisto al rialzo le stime per fine anno sia degli ordini che riceverà sia ovviamente dei ricavi. I ricavi del 2010 dovrebbero superare il livello record raggiunto nel 2007 di 3,8 miliardi. Ovviamente questo ha elettrizzato un po' tutto il comparto dei chips e quindi ha portato ordini in acquisto sulle stesse ST Microelectronics. Grazie a Eleonora Micheli, come tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, e ci risentiamo presto. Buona serata a tutti. Allora, intanto Callisto Tanzi dice: non mi aspettavo una sentenza così severa. Ma insomma, il PM aveva chiesto 20 anni, ne ha presi 18. E che si aspettava? Non so. Una pacca sulle spalle? Bah. Andiamo avanti, che è meglio, se no poi straparlo. Alcuni messaggi, molti di voi arrabbiati. Qui nessuno sta dicendo che bisogna avere un euro a due velocità. Si sta dicendo che gli economisti, gli opinionisti sui giornali europei iniziano a ragionare se, vista l'opposizione tedesca a qualunque forma di salvataggio, e molti di voi danno ragione alla Germania, giusto che il fratello Klaus non paghi per i fratelli spendaccioni Patrick, Dimitri, Pedro, Pablo e anche Francesco, va bene, e quindi dite che la Germania fa bene. Altri dicono che la Germania è spocchiosa, dovrebbe ricordarsi quanto è costata l'Europa la sua unificazione e quanto ha imposto un euro forte lei, perché il marco era forte e anche l'euro doveva essere forte. Tutti d'accordo su questo. C'è una domanda che volevo leggere perché mi faceva impazzire, mi piacciono più le critiche delle volte, che ce n'era una che era pazzesca, diceva insomma: adesso che non riuscite più a difendere Berlusconi vi inventate il tema dell'euro nord e dell'euro sud. Eccolo qua, ora che avete finito con gli Osanna sul governo Berlusconi non sapete più cosa dire e vi inventate questo tema. Sì, infatti non ci sono più gli Osanna, ma dopo il GR torniamo a parlare di euro forte, euro debole, perché è un tema, e visto che la Germania dice di no a qualunque piano di salvataggio bisogna capire anche cosa vuole fare la Germania, e sentiremo altri commenti registrati assieme ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Poi l'intervista a Paolo Scaroni sui temi toccati dal Wikileaks, rapporti Eni, Gazprom, Italia, Russia, le accuse degli americani, il costo del prezzo del gas. Anche oggi Mucchetti, il collega Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, è tornato sul tema. Insomma, una lunga intervista. Ci risentiamo dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, restiamo sul tema dell'euro, che piace o non piace, è un tema di cui si sta discutendo, dell'euro a due velocità. E l'ipotesi avanzata oggi, a due velocità, euro del nord, euro del sud. E allora sentiamo altri commenti, quello di Luigi Zingales l'abbiamo ricordato, quello di Tutto Boeri l'abbiamo sentito, sempre la collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Teresa Trillò, ha raggiunto l'economista Fiorella Costoris, docente alla Sapienza di Roma, sull'ipotesi di un euro del nord e un euro del sud, mettiamola così. Io penso che politicamente non la voglia in realtà la Germania, e Zingales sta pensando di far uscire i paesi forti del nord Europa, quindi credo che non sia fattibile, credo che non sia neanche opportuna, perché in fondo Zingales pensa all'ipotesi che i paesi del sud Europa, quelli più deboli, provvedano, una volta usciti dall'euro forte, a forme di svalutazione della loro valuta, cosa che in Italia conosciamo bene perché l'abbiamo praticata, ed è una scelta devastante, nel senso che inizialmente dà maggiore competitività delle imprese, ma poi viene rimangiata rapidamente attraverso una spirale svalutazione, inflazione, svalutazione ancora. Quindi non credo che sia politicamente possibile, non credo che sia opportuna. Voglio aggiungere che se si realizzassero due aree diverse, il nord Europa e il sud Europa, diciamo così, con un euro forte al nord e un euro debole al sud, quello che succederebbe probabilmente è che l'Italia verrebbe divisa fra un nord, un centro-nord forte che prenderebbe l'euro forte della Germania, diciamo, e un euro debole del sud che toccherebbe al mezzogiorno, quindi avrebbe anche una conseguenza politicamente e economicamente devastante all'interno del nostro paese. E in effetti fa bene Fiorella Costoris a ricordare che quando tu svaluti la moneta, come l'Italia ha fatto per anni, è vero che hai un beneficio perché i tuoi prezzi, i tuoi prodotti costano meno e quindi riesci a esportare di più, però poi imbarchi inflazione. Come fai a imbarcarla? Beh, con le materie prime energetiche costano molto di più perché la tua moneta è più debole rispetto al dollaro e quindi i prezzi salgono. Ora, quando tu imbarchi inflazione hai un beneficio iniziale, appunto perché esporti di più, ma poi hai l'inflazione al 7, 8, 9, 10% e quindi erodi potere d'acquisto, erodi salari, attenzione. Sul fatto che spaccherebbe in due l'Italia siamo anche forse d'accordo, molti, vedo alcuni ascoltatori se lo augurano, per cui va bene, andiamo avanti con i commenti a questa ipotesi. Parere negativo lo ha fornito anche Fabrizio Nida, che insegna economia internazionale alla Bocconi, ex presidente dell'ICE, sempre raggiunto dalla collega Teresa Trillò. Sono, diciamo, contrario. L'analisi che il progetto sia fallito è un filo prematura. Certo, è fallito rispetto ai tempi, ma tra l'altro nessuno pensava che introdotto l'euro nel giro di 10 anni si arrivasse ad un'Europa politica o ad un'Europa fiscale. Quindi è un giudizio un po' azzardato. Io ritengo che sia un processo lento, quello di transitare da un vincolo monetario che risponde a esigenze di integrazione dei mercati finanziari europei a un vincolo assai maggiore che coinvolge appunto le politiche fiscali. Detto questo, a mio avviso rimane l'obiezione principale che un ritorno ad un cambio flessibile tra due aree all'interno dell'Europa rappresenterebbe un rischio non solo ovviamente per i paesi dell'Euro Sud, diciamo, che si vedrebbero attribuire quello che Zingales considera un vantaggio, no? Una valutazione del 10% che restituisce competitività, ma dimentica l'altra faccia della medaglia, cioè questo vantaggio l'abbiamo avuto per molto tempo prima e ci siamo lamentati delle svalutazioni competitive che non aiutavano i paesi del sud, incluso l'Italia, a migliorare i propri conti e le proprie capacità produttive, quindi avere una sorta di paracadute di una svalutazione che poi non può essere una tantum, una volta che le crea due monete deve rassegnarsi ad avere anche un tasso di cambio fluttuante. Da qui la considerazione che per i paesi del sud il vantaggio sarebbe effimero, per i paesi del nord altrettanto un rischio di trovarsi con un sistema bancario finanziario in preda alle oscillazioni quotidiane del cambio tra queste due aree, non dimenticandosi che appunto l'euro è stato introdotto anche, se vogliamo, in conseguenza del fatto di aver scelto di avere un mercato finanziario integrato, e con un mercato finanziario integrato i capitali si muovono con velocità pazzesca, e lasciare che il tasso di cambio sia una variabile lasciata al gioco della speculazione quotidiana è pressoché suicida. Bocciato anche l'ipotesi di un euro del nord, uno del sud, da un altro economista, Alberto Quadricurzio, che insegna preside la Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano e spesso ospite. Sentiamo perché questa volta l'intervista è del collega di Radio Core, Guido Maurino. Io ritengo che sia uno scenario del tutto improbabile, direi meglio impossibile, per molte ragioni che vanno dal fatto che i contratti stipulati in euro sono ormai un numero enorme, del fatto che all'interno di Eurolandia la Germania, che è il paese che potrebbe essere interessato alla valuta più forte, è talmente favorito dalle esportazioni verso gli altri paesi di Eurolandia che finirebbe a danneggiare se stesso, ed infine perché l'euro è anche moneta di riserva in molte banche centrali. Dopo le crisi di Grecia e adesso quella dell'Irlanda, si è parlato di un possibile interesse tedesco ad uscire dalla moneta unica proprio per evitare di pagarne i costi. Secondo lei i benefici sono comunque superiori anche per Berlino? Sono nettamente superiori, anche perché vorrei capire quali costi sta pagando la Germania dalla crisi tedesca, dalla crisi irlandese e dalla crisi greca. Tenga conto che molte banche tedesche erano sovraesposte nei confronti della Grecia e nei confronti dell'Irlanda, e che il salvataggio di quei due paesi ha evitato dei gravissimi problemi anche alle banche tedesche. Oh, finalmente lo diciamo, perché la Germania è vero che è brava, è vero che il fratello Klaus risparmia, non ha debiti, a molti contanti, ma è anche vero che il fratello Klaus ha prestato, non vuole avere il conto corrente in comune con gli altri fratelli Pedro, Francesco, Pablo e Patrick, Dimitri, ma in realtà ha prestato molti soldi con tassi anche interessanti, potremmo dire, insomma, ci ha guadagnato nel prestare i soldi ai fratelli, perché se andiamo a guardare le banche più esposte verso la Grecia e l'Irlanda sono le banche tedesche. Allora come la mettiamo? Quando c'è da guadagnare sui prestiti vanno bene l'Irlanda e la Grecia, quando c'è da tenere assieme la casa europea va male? Mm-mm. E poi la Germania in questo momento riesce a esportare, avendo una moneta unica, in Europa benissimo. Se facessimo l'euro del nord e l'euro del sud, è chiaro che tutti i prodotti tedeschi costerebbero moltissimo se la Germania avesse l'euro, diciamo, forte, e quindi esporterebbe molto molto meno in Europa. Vabbè, ultimo commento, quello di Giacomo Vaciago, sempre al microfono il nostro Guido Maurino. Giacomo Vaciago insegna economia all'Università Cattolica di Milano. L'euro è una costruzione delicata, richiede che i membri siano in buona fede, non imbroglino, e richiede che i governi siano capaci di cooperare, fare giochi cooperativi, dove 2 più 2 fa 6 e si discute solo come ripartire il guadagno netto, il più 2. Guai a fare giochi a saldo zero, dove 2 più 2 fa 4 e io posso vincere tutto il 4 a spese 2. Professor Vaciago, oggi Zingales in un'intervista a Repubblica prefigura uno scenario in cui la Germania, magari seguita da Olanda, Finlandia e Francia, esce dall'Europa. Secondo lei è uno scenario possibile? Ma intendiamoci, qualcuno l'anno scorso diceva che la Grecia tornava alla dracma, svalutava e rientrava nell'euro. Beh, questa qui è fantascienza. Siamo seri, o riscopriamo le ragioni dello stare assieme, e oggi 27 è il minimo, o ciascuno va per i fatti suoi. Quali rischi vede, a parte il fatto di non potersi presentare da soli, ad esempio al cospetto dei cinesi, in un'Europa monetaria a due velocità? Beh, è che due non è meglio di uno ed è peggio di tre, e quindi chiaramente a quel punto, quando inizi a rompere, non sai dove ti conviene fermarti. Si torna a ciascuno, abbia la sua moneta e faccia quello che vuole. E poi è vero quello che ricordano molti ascoltatori, ma insomma tutti i contratti stipulati in euro, i mutui, che cosa succederebbe a questa roba? Ma detto ciò, il problema c'è tutto, perché poco fa è arrivata una smentita dei leader europei di un vertice straordinario che si sarebbe dovuto tenere domenica mattina a Bruxelles, dei vari capi di Stato di governo dell'area euro. Mentre è confermato l'incontro domani di Angela Merkel con Sarkozy, la Francia appoggia la Germania ufficialmente sul no alle obbligazioni europee e no ad aumentare il fondo di salvataggio europeo. Comunque, adesso il traffico e poi l'intervista con il numero uno di Eni, Paolo Scaroni, soprattutto su quanto sollevato dalla pubblicazione dei documenti Wikileaks per quello che riguarda i rapporti Italia-Russia. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, avrete letto, come tutti noi, insomma, le pubblicazioni di Wikileaks, tra cui un capitolo importante per quello che riguarda l'Italia riguardava i rapporti Italia-Russia. Tra i documenti c'erano le perplessità manifestate dall'ambasciata americana a Roma per i rapporti Russia-Italia, gestiti attraverso il rapporto tra il colosso energetico nostro Eni e quello russo Gazprom, primo gruppo del gas al mondo. E con la frase: la politica energetica dell'Italia riflette le priorità russe piuttosto che quelle europee, e quindi l'Eni, la costruzione e l'aiuto che sta dando alla costruzione del gasdotto South Stream, molto voluto dalla Russia, tanti altri elementi. E poi c'era anche la vicenda che coprimmo anche in Focus Economia di Bruno Mentasti, ex imprenditore delle acque minerali, amico personale di Silvio Berlusconi. Nel 2005 avvia un progetto per vendere direttamente in Italia 2-3 miliardi di gas russo che Eni, che era nella quota Eni avrebbe ceduto a Gazprom. E a questo scopo Mentasti apre la filiale italiana di Centrex, società austriaca che fa capo a Gazprom. Insomma, il progetto avrebbe consentito a Mentasti di incamerare profitti per un centinaio di milioni di euro l'anno. Viene bloccato alla fine per i rilievi dell'antitrust. Di queste cose abbiamo parlato con Paolo Scaroni, numero uno dell'Eni, partendo però dalle dichiarazioni fatte ieri da Vittorio Mincato, cioè il suo predecessore, che ha detto: io non ho mai avuto pressione della politica, il riferimento era ai rapporti Italia-Russia, durante la mia gestione. Abbiamo chiesto in primo luogo a Paolo Scaroni se anche lui confermi la posizione di Mincato. Certo, altro che, io ho ricevuto il testimone da Vittorio Mincato, e anzi approfitto per ringraziarlo perché mi ha lasciato un'azienda in salute, efficace, efficiente e sul mercato. E posso dire le stesse cose che dice lui. Lui ha governato l'azienda dal 98 al 2005, io l'ho governata dal 2005 fino ad oggi, e pressione della politica devo dire zero. E qui mi riferisco non solo al governo Berlusconi, al primo governo Berlusconi, ma anche al governo Prodi che l'ha seguito e al nuovo governo Berlusconi. Eni ha una sua autonomia che le viene dal fatto di avere 300.000 azionisti nel mondo, e quindi la politica resta fuori dalle nostre decisioni. Ecco, sempre il suo predecessore Mincato ha negato che vi fosse Bruno Mentasti come controparte. Detto, sì, c'era, ma non era certo lui la controparte dell'Eni. Anche quando lei poi ha dovuto riaprire il dossier, che poi non è andato in porto, ha avuto come controparte Gazprom e non il mediatore Mentasti? Ma guardi, io mi sono trovato, appena arrivato in Eni, ma quando dico appena intendo veramente qualche giorno dopo essermi seduto alla mia scrivania, mi sono trovato un MOU, Memorandum of Understanding, firmato dal direttore generale della divisione Gas and Power, Luciano Sgubini, alla presenza di Mincato con Gazprom. Questo memorandum parlava di molte cose e chiariva una posizione di Eni vis-à-vis Gazprom per molti anni. Tra le varie cose, ipotizzava anche una vendita diretta da parte di una società controllata da Gazprom, Centrex, sul mercato italiano. Il signor Mentasti non lo conoscevo allora, non l'ho conosciuto a quell'epoca, l'ho incontrato soltanto alcuni mesi dopo, ma veramente non lo conoscevo. Quindi nessuno di noi, né io né Vittorio Mencato né Luciano Sgubini né nessuno immaginava che il signor Mentasti volesse entrare in questo business. In questo senso abbiamo trasferito l'MOU in una intesa, l'abbiamo portata al Consiglio di Amministrazione di Eni che l'ha approvata. Dopodiché qualche settimana dopo è emerso un ipotetico coinvolgimento del signor Mentasti e quindi di un italiano in questa vicenda. Alla luce di tutto questo, anche seguendo le indicazioni che ho avuto dal Consiglio di Amministrazione dell'Eni, abbiamo rinegoziato l'intera intesa con Gazprom, che è stata rinegoziata nell'ottobre del 2005 e che ha portato a quella situazione che viviamo oggi, che è una situazione di totale soddisfazione per Eni. Ecco, lei quando dice che non ha mai avuto interferenze della politica sull'Eni si riferisce anche al periodo successivo a questa vicenda? Assolutamente, all'epoca poi il governo Berlusconi è terminato, è arrivato il governo Prodi, i miei rapporti erano naturalmente con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli Esteri che sono i tipici interlocutori di Eni. E devo dire che sia con il governo Prodi che con il governo Berlusconi noi utilizziamo la diplomazia italiana e la presenza italiana nel mondo negli interessi della nostra azienda, ma pressioni zero. Ecco, un ultimo aspetto sollevato, se non ricordo male, in un articolo del Corriere della Sera da Massimo Mucchetti, che diceva insomma c'è poca convenienza. In questo momento gli americani sono così interessati ai rapporti Italia-Russia, Russia anche e soprattutto nel gas, per un motivo geostrategico, però sollevavo il tema della poca convenienza degli accordi firmati con la Russia, visto che il prezzo del gas è calato. Lei invece mi sta confermando che il rapporto con Gazprom, che è comunque il primo produttore di gas al mondo, continua in maniera soddisfacente anche per Eni, quindi per i suoi azionisti. Noi naturalmente abbiamo rapporti con tutti i nostri fornitori e Gazprom è uno dei nostri fornitori e nemmeno il più importante, perché per noi il primo fornitore di gas è Sonatrach, la società algerina del gas. Naturalmente i contratti a lungo termine del gas hanno i loro momenti d'oro e i loro momenti più difficili. Certamente negli ultimi 18 mesi i rapporti a lungo termine, i contratti a lungo termine che prevedono un gas legato al prezzo del petrolio hanno avuto una redditività minore dei contratti spot che invece sono soltanto frutto del mercato. Noi peraltro siamo per molti anni abbiamo beneficiato di questa situazione, siamo convinti che il futuro ci darà ragione, che quindi i contratti a lungo termine di approvvigionamento del gas ci ridaranno una redditività particolarmente interessante. E quindi viviamo i rapporti con Gazprom nello stesso modo in cui viviamo i rapporti con Sonatrach algerina, oppure con la Norsk Hydro norvegese, o con gli olandesi o con i libici. Siamo i leader del mercato e gestiamo i nostri rapporti in chiave di lungo termine, non a brevissimo termine. Un'ultima domanda, lei si sarà chiesto però perché attraverso Wikileaks abbiamo scoperto tutto questo interesse dell'America nei rapporti di fornitura? Lei ha ragione, la Russia non è il partner principale, l'Algeria, e c'è anche un gasdotto pure lì, è un partner molto più storico, ma insomma dei rapporti Italia-Russia e quindi anche del ruolo dell'Eni, visto che è il primo gruppo energetico italiano. Guarda, io credo che se voi intervistaste i diplomatici o l'amministrazione americana che si occupa di temi energetici vi diranno che Eni ha sempre avuto un atteggiamento trasparente, chiaro, di dialogo, non necessariamente di accordo su tutto, ma che i nostri rapporti con l'amministrazione americana sono assolutamente eccellenti. Beh, era giusto chiedere appunto a Paolo Scaroni, che ci ha concesso questa intervista, un insieme di risposte, viste anche la campagna, la copertura di Wikileaks. Adesso è giusto chiedere a Giuseppe Cruciani, passiamo dalle stelle dell'Eni alle stalle della politica, alle stalle della politica, di cosa ti occuperai oggi? Di cosa della compravendita, a proposito di stalle, della compravendita, non troppo, della compravendita dei parlamentari. Ancora col Toto Mercato. Impazza il calciomercato. L'ultimo acquisto qual è? L'ultimo acquisto pare che sia Razzi, alcuni deputati dell'Italia dei Valori che incredibilmente non voteranno la sfiducia. Roba. Incredibile anche questo. Vabbè. Tra poco la Zanzara, da Sebastiano Barisoni, veramente tutto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.